America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Barack Obama, l'abbiamo detto più volte, ha virato verso il centro, o meglio verso il centrodestra del suo partito, del Partito Democratico, ha aperto il dialogo con i repubblicani. Adesso si tratta di capire fino a che punto si sposterà verso il centro e verso quei movimenti che rappresentano l'ala centrista del Partito Democratico. Perché vi parlo di questo? Beh, perché l'altra sera sono stato alle Nazioni Unite, dove c'erano Bill Clinton e Tony Blair, i due grandi vecchi leoni del centrismo della sinistra internazionale, e gli interpreti del movimento cosiddetto della Terza Via, e hanno strizzato l'occhio a Barack Obama. A questo punto toccherà al presidente decidere se raccogliere l'invito, che per ora è informale, molto morbido, e dunque andare all the way, fino in fondo, rompendo definitivamente poi con la sua base elettorale, che è molto più a sinistra e molto delusa da lui per questo compromesso che ha fatto con i repubblicani sul prolungamento dei tagli fiscali di George W. Bush, e formalizzare la sua partecipazione, la partecipazione della sua Casa Bianca, a quel movimento politico che negli anni 90 fu guidato da Bill Clinton e spostò parecchio a destra il baricentro politico della sinistra americana e comunque della sinistra internazionale. The other thing I think that is important for places like the UK and the United States to do, if we're trying to make peace, is to paint a picture of what it would look like after it was over, so you make the strongest possible argument that it's in the interest of the parties to make compromises and hold their nose and do whatever has to be done to get there. Avete riconosciuto sicuramente la voce dell'ex presidente americano e questo ammiccamento che ha fatto lunedì sera a questo incontro avvenuto alle Nazioni Unite nei confronti del suo successore. L'incontro è stato parecchio interessante. L'idea era quella di lanciare nuovi leader della Terza Via, soprattutto leader europei che rappresentano, secondo Bill Clinton, la nuova generazione. Abbiamo visto Bill Clinton molto attivo nei confronti di Barack Obama. Lo ha aiutato l'altro giorno a spingere per questa proposta per prolungare i tagli fiscali di George W. Bush. Non solo, l'incontro di lunedì è stato organizzato da John Podesta. John Podesta è stato capo di gabinetto di Bill Clinton e uno dei teorici della Terza Via, e John Podesta è stato anche il capo della transizione, è stato l'uomo di punta che ha organizzato, scelto, contribuito a scegliere alcuni degli uomini chiave dell'amministrazione di Barack Obama. Questa alleanza, tra virgolette, trasversale prende corpo, se non nella sostanza formale, quantomeno in quella sostanziale. Every time the unionists would say to us, well, of course we want peace, but they don't. And the Republicans would say, you don't understand. We've always wanted peace, but the other side don't. So the important thing, I think, is to try and create the framework within which the other side can explore the good faith of the people they're dealing with. A rafforzare la posizione di Bill Clinton, a cercare di rendere più interessante questo ammiccamento nei confronti di Barack Obama, è intervenuto anche Tony Blair, lo avete sentito. Ecco, c'è da dire che la differenza tra gli europei e gli anglosassoni resta marcata. Gli europei della sinistra continentale, diciamo dell'Europa continentale, restano su posizioni più stataliste, più favorevoli ad avere delle regole che controllano bene dall'alto, delle certezze sindacali. Ecco, questa posizione si scontra con quella di Blair e con quella di Clinton. Blair a un certo punto ha detto: certo, certo, avete ragione, però bisogna vincere, e finora non è che la sinistra sia andata molto bene. Dice: il Partito Laburista ha perso le elezioni in Gran Bretagna, la sinistra in America ha perso le elezioni di novembre, e dunque, suggeriva Blair, dobbiamo ascoltare quello che vuole l'elettorato. Non possiamo semplicemente andare avanti tenendo presente soltanto quelli che sono i nostri posizionamenti ideologici, ma dobbiamo capire che le rivendicazioni della gente, se non vengono soddisfatte in qualche modo, alla fine troveranno un loro contrappunto nel voto. Per poter capire se ci sarà questo spostamento più marcato, più ufficiale, più così esplicito di Barack Obama verso la terza via, dovremo aspettare qualche mese, dovremo aspettare l'anno nuovo. Dovremmo anche aspettare l'anno nuovo per capire che cosa succederà con la politica della Federal Reserve. Perché? Beh, ieri c'è stato il Federal Open Market Committee della Federal Reserve, il comitato monetario della Fed, che non ha cambiato neppure una virgola nel suo programma di espansione monetaria. La Fed ha dato toni così vagamente, così prudenti, cauti sulle prospettive dell'economia, soprattutto sulle prospettive dell'occupazione, però ieri abbiamo visto che il mercato ha toccato, Wall Street ha toccato il massimo in due anni, 11.477 punti, e proprio in risposta invece a quello che sta capitando sul fronte politico, quello di cui vi parlavo prima, il movimento verso il centro di Obama, il dialogo con i repubblicani, la possibilità che a Washington le cose davvero vadano a muoversi. Anche all'interno della Fed però qualcosa potrebbe cambiare. Perché? Perché da gennaio ci saranno dei nuovi ingressi in base a delle rotazioni che sono naturali nel contesto della formazione del Consiglio della Federal Reserve. Ci saranno tre falchi sul fronte inflazionistico che prenderanno il posto di tre colombe. Escono Eric Rosengren, Sandra Pianalto, James Bullard, e entreranno invece Charles Plosser della Fed di Filadelfia, Richard Fisher di Chicago, Narayana Kocherkalota di Minneapolis. Prenderanno la posizione di Hoening, un altro governatore che ieri ha votato contro Ben Bernanke. Ovviamente oggi non possiamo saperlo, e un'altra risposta che avremo dall'anno nuovo e da gennaio, quando le carte nella capitale cambieranno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 18 dicembre avremo il Brooklyn Electronic Music Festival qui a New York. Solo musica elettronica, artisti soprattutto newyorkesi, 3.000 persone nelle ultime edizioni. E dunque a questo festival e alla musica elettronica voglio dedicare la canzone del giorno con una interpretazione di Chris Glover, nome d'arte Penguin Prison, Something I Am Not. We can barely see, but we don't wanna turn the lights on, and we can barely speak. Sorry we can't get to the phone. Please, I'm trying to sleep. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!